Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La sfida dell'ISIS, la sfida del terrorismo è una sfida molto grande, una sfida drammatica. Tutti noi abbiamo nella mente un fatto molto semplice, che i terroristi stanno colpendo i luoghi simbolo della nostra identità. I terroristi non attaccano degli obiettivi militari. Hanno attaccato un museo a Tunisi, hanno attaccato un'università in Kenya, una scuola in Pakistan e attaccano un teatro, uno stadio, un ristorante a Parigi. Dunque i terroristi puntano a farci paura, puntano a disintegrare le basi della nostra identità. Questo è Torenzi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a proposito di quello che è successo a Parigi. Noi ci siamo lasciati, vi ricordate, venerdì alle 22, sembrava che il mondo in tutto il suo bello e anche in tutto il suo male fosse più o meno, diciamo, stabile, se così si può dire. Poi poco dopo la fine di Effetto Notte è emersa questa grande tragedia, questo massacro di Parigi, e quindi inevitabilmente dopo questo terribile fine settimana ci ritroviamo qui a parlarne, a focalizzare la puntata soprattutto su questo argomento, chiaramente, perché tanti sono gli aspetti su cui riflettere, di cui parlare, a parte che naturalmente ci sono le indagini che vanno avanti. Sembrava che uno degli attentatori, forse la mente, fosse fuggito, arrivato in Italia con questa Seat nera di cui si è parlato un po' tutto il giorno, invece poi è stato smentito. Però quindi lo stratega di questo molteplice attacco a Parigi è ancora da trovare, in fuga, e naturalmente caccia l'uomo un po' tutta l'Europa, perché si è allargata naturalmente la possibilità di fuga e quindi di ricerca. Le domande, vi dicevo, sono tante, sono come mai tanti giovani si fanno contagiare, no, da questa ideologia così distruttiva, così terribilmente violenta dell'ISIS. Chi anche ha prodotto l'ISIS? Perché l'Occidente c'entra e anche parecchio, e poi ne parleremo. Insomma, le domande sono tante, non risponderemo a tutte, non cercheremo di rispondere a tutte in questa puntata, perché poi avremo modo anche nelle prossime giorni di ritornarci, perché è un fatto talmente grande e grave che merita effettivamente di continuare a rifletterci, a vederlo da varie sfaccettature, e poi seguiremo ovviamente passo passo l'inchiesta e le indagini. Intanto quello che volevo chiedervi è, dopo tutto questo, qual è il vostro stato d'animo? Avete sentito Renzi che dice è un attacco ai nostri valori, la nostra identità. Voi vi sentite colpiti nella vostra identità? Sentite che il vostro modo di sentire, di vivere potrebbe cambiare, anche perché l'allarme è ormai un po' in tutta Europa? Anche Alfano ha detto c'è rischio, non possiamo escluderlo, e logicamente non si può escludere da nessuna parte. Voi sentite che avete una percezione della vita, anche della vostra vitalità e delle vostre abitudini diversa? 349-238-6666, come sempre il numero per i vostri messaggi, le vostre opinioni, in particolare oggi su questi fatti. 349-238-6666, oppure come sempre lo sapete c'è lì la pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni, per le vostre opinioni, quello che volete. Insomma, intanto vi riassumo la giornata. Gli attentati di Parigi, Hollande nel suo discorso alle Camere Unite dichiara la Francia è in guerra, e Putin al G20 accusa 40 paesi finanziano l'ISIS. Caccia terroristi, continuano le operazioni della polizia francese per identificare i complici del comando e si allargano in tutta Europa, ma l'ottavo attentatore non si trova. Giubileo, tutto confermato, il Papa lo aprirà in Africa. Il ministro Alfano comunica alla Camera che cresce la preoccupazione per la minaccia terroristica. I migranti sono 700 i bambini morti nel 2015 nel Mediterraneo, secondo i dati UNICEF, e 215.000 i minori che hanno cercato asilo nell'Unione Europea. Campania, caos in Consiglio regionale. Oggi, durante il voto relativo alla legge sull'acqua, il Movimento 5 Stelle strappa microfono e fogli del disegno di legge, ma l'ora della Presidente seduta sospesa. Monte dei Paschi, la Procura di Siena riapre le indagini sulla morte dell'ex responsabile della comunicazione, David Rossi. Secondo il legale della vedova, lo hanno ucciso almeno in due. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto oggi all'età di 87 anni Nando Gazzolo, grande protagonista dello spettacolo italiano, noto al grande pubblico soprattutto per la sua inconfondibile voce. E come vi dicevo, staremo soprattutto sulle notizie che riguardano gli attentati di Parigi, quindi la caccia ai restanti componenti del comando che ha perpetrato il massacro di 129 persone con poi 352 feriti. Questi che sentite se sono i parlamentari francesi tutti uniti giustamente trasversalmente nel loro inno nazionale, sentite che cantano tutti insieme, e oggi il presidente Hollande ha parlato a Camere Unite. La France est en guerre. Questa è la frase forte che ha detto, naturalmente ha parlato lungamente, la Francia in guerra, quindi una dichiarazione molto forte. Ha detto che sarà necessario decretare uno stato di emergenza di almeno 3 mesi in Francia e che bisognerà cambiare la Costituzione. Chiede infatti la modifica dell'articolo 36 sullo stato di emergenza, perché dice in Francia abbiamo bisogno di un regime costituzionale in grado di gestire la lotta a questo nemico. Questa non è una guerra di civiltà, dice Hollande, perché i terroristi non ce l'hanno, e ha assicurato: intensificheremo i raid in Siria, distruggeremo l'ISIS. Nel frattempo continuano, vi dicevo, le operazioni della polizia francese per identificare i complici del commando e si allargano in tutta l'Europa, ma l'ottavo attentatore ancora non si trova. Poi ci aggiorniamo sugli ultimi sviluppi delle indagini. E a Parigi e in tutta Europa oggi c'è stato un minuto di silenzio per ricordare le vittime degli attacchi. A mezzogiorno in punto un minuto di silenzio è stato osservato in Francia e nel mondo. Nella capitale francese centinaia di persone si sono radunate in una Place de la République piena di fiori e messaggi. Il presidente François Hollande era invece all'Università della Sorbona insieme al primo ministro Manuel Valls e ad altri membri del governo. Hollande ha scelto questo luogo, ha spiegato l'Eliseo, perché molte vittime erano studenti e insegnanti. Raccoglimento anche davanti ai ristoranti attaccati venerdì, davanti alla grande moschea di Parigi con il Grand Mufti, il direttore, il primo imam. Negli altri paesi europei e non solo, piccole folle davanti alle ambasciate francesi. Ad Antalya, in Turchia, l'omaggio del G20 con le bandiere a lutto e i leader in piedi. In Italia il presidente Sergio Mattarella ha osservato il minuto di silenzio all'Aquila all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università. Nel tardo pomeriggio, in piazza Montecitorio, la Marsigliese e gli inni d'Italia e europeo, suonati dalla banda Interforze alla presenza delle autorità. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo gli attentati a Parigi, la lotta al terrorismo islamico integralista è diventato il tema centrale del G20 che oggi si è concluso in Turchia. C'è stato un minimo avvicinamento tra Russia e Stati Uniti, poi ne parleremo. E sentiamo cosa ha detto a margine del G20 il presidente del Consiglio Renzi. Occorre avere una grande strategia politica, occorre coinvolgere Stati Uniti, Russia, le grandi potenze internazionali, e occorre avere finalmente la forza e l'intelligenza di capire che di fronte a un problema così grande non c'è nessuno che lo risolve con la bacchetta magica, e quindi occorre una strategia di lungo periodo. Mi pare che siamo nella direzione giusta e che si sia fatto un passo in avanti molto importante sia con il processo di Vienna che con il G20. Washington intanto, gli Stati Uniti escludono interventi di terra in Siria e fanno pressione per colpire anche in Libia. Obama ha sottolineato oggi: l'ISIS non è uno Stato ma un gruppo di killer e non convenzionale, sottolineando che il successo richiederà la fine della guerra in Siria. Siamo uniti, dice, di fronte alla minaccia dell'ISIS. Per quanto riguarda il giubileo, è stato confermato che ci sarà e che il Papa lo aprirà ufficialmente in Africa. Oggi però il ministro dell'Interno Alfano, nella sua informativa alla Camera, ha detto che cresce la preoccupazione per possibili attentati. È del tutto naturale quindi che il livello di preoccupazione possa crescere in coincidenza con l'imminente avvio del giubileo straordinario della misericordia. E del resto la persona del Pontefice, il Vaticano, Roma e gli altri simboli della cristianità sono già stati al centro di dichiarazioni minacciose, incitanti alla distruzione e all'odio. E alla Camera ha parlato anche il ministro degli Esteri Gentiloni. Lavoreremo per snidare e neutralizzare i terroristi ovunque siano infiltrati o cerchino di infiltrarsi, ma senza fare confusione tra criminali e le decine di migliaia di uomini, donne e bambini in fuga dalla guerra e dalle dittature. E dovremo farlo come si fa nei grandi paesi, e cioè insieme. È insieme che dobbiamo vincere la paura, assicurare la sicurezza dei nostri concittadini e difendere la nostra patria. Gentiloni tra l'altro ha ricordato anche che tra i morti e i feriti di Parigi c'era anche Valeria Solesin, una ragazza di 28 anni che studiava alla Sorbona, una delle università più prestigiose del mondo. Ha detto: donna italiana esemplare che ricordiamo abbracciando i suoi genitori che hanno dato un esempio di umanità. Lei tra l'altro era una volontaria di Emergency. Misure antiterrorismo anche sono contenute nella manovra sulla quale prosegue il dibattito. Di per intelligence, polizia in funzione antiterrorismo, rafforzamento delle misure per il mezzogiorno, agevolazioni per le abitazioni date in comodato gratuito ai figli sono alcune delle misure sulle quali si sta lavorando in commissione bilancio del Senato, che dovrebbe chiudere domani i suoi lavori sulla legge di stabilità. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per mercoledì. In arrivo ci sarebbero dunque 120 milioni di euro per l'antiterrorismo da assegnare all'intelligence e alla polizia, oltre ai 70 già in conto. Una risposta ai fatti di Parigi, così come anticipato da Matteo Renzi già all'indomani degli attentati e ribadito ancora oggi a margine del G20. C'è poi il capitolo a casa, si va verso uno sconto per le abitazioni lasciate da chi si separa dall'ex coniuge a patto che si sia proprietari di un solo immobile, sconti anche per chi affitta a canone concordato, mantenimento a carico del Servizio Sanitario Nazionale della spesa per i farmaci innovativi, compreso quello contro l'epatite C. In manovra verrà infine assorbito il decreto salva regioni, cioè quello che permette un piano diluito in 30 anni dei loro debiti pregressi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di migranti. Da gennaio di quest'anno 215.000 minorenni, 700 al giorno, hanno cercato asilo nell'Unione Europea e circa 700 bambini sono morti nel 2015 attraversando il Mediterraneo. Questo lo ricorda l'UNICEF Italia, che lancia la petizione Indigniamoci, perché dice questi bambini, come i nostri figli, hanno diritto di crescere, di giocare, di andare a scuola, di avere un futuro. E poi, per quanto riguarda la politica italiana, almeno questa, diciamo, scorcio nel Consiglio regionale della Campania, seduta sospesa più volte, oggi poi ripresa a causa della inagibilità politica dell'aula, dove i grillini hanno continuato con l'occupazione di banchi della presidenza. La seduta era stata convocata per discutere anche degli attentati in Francia. Esprimendo piena solidarietà ai francesi, i grillini hanno portato però il caso De Luca in aula, e Rosetta D'Amelio, che è presidente del Consiglio regionale della Campania, è stata colta da malore, ricorsa al 118. Poi, per la cronaca, c'è questa notizia che riguarda il Monte dei Paschi di Siena, la vicenda del Monte dei Paschi. L'ex responsabile della comunicazione, David Rossi, sarebbe stato, vi ricordate, caduto, si diceva suicidato, si è buttatosi giù dalla finestra, sarebbe stato ucciso da almeno due persone, non si tratterebbe di suicidio. Questo però lo sostiene Luca Goracci, che è legale della vedova di Rossi, che è morto, vi ricordo, il 6 marzo 2013, precipitando appunto dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Sulla base di questa tesi, sostenuta da tre nuove perizie, il legale ha presentato il 6 novembre scorso in tribunale a Siena la richiesta di riapertura del caso, che è stata accolta dal procuratore Salvatore Vitello. A Messina intanto sul fronte idrico è tornata l'acqua, però il sindaco ha detto non bevetela perché potrebbero esserci entrati dei residui tossici eccetera, per cui è tornata l'acqua, non si può bere per il momento. E per chiudere, un lutto nel mondo dello spettacolo: è morto oggi all'età di 87 anni Nando Gazzolo, grande protagonista dello spettacolo italiano, noto al grande pubblico per la sua inconfondibile voce e per gli spettacoli teatrali, i sceneggiati della TV. Lo annuncia la famiglia, era ricoverato da una settimana in una clinica. Adesso, prima di lasciarci per aggiornare chi viaggia, qua ritorniamo immediatamente insieme, volevo leggere qualcuno dei vostri messaggi, molti anche sulla pagina Facebook di Effetto Note o gli sms al 349-238-6666. Vi ho chiesto quanto quello che è successo a Parigi vi crea tensione, vi crea ansia, cambia il vostro modo di sentire, le vostre abitudini di vita. Per esempio Michele scrive: ciao Roberta, penso che il sentimento che tutti noi occidentali possiamo avere ragionando di pancia sia di rabbia e di vendetta, ma se uno cerca di ragionare un attimo, cerca di capire come mai proprio in Francia si stanno accanendo i terroristi islamici, beh, allora forse potrà pensare come la Francia sia la seconda forza dopo gli Stati Uniti a combattere in Siria e come sia la prima e unica nazione occidentale a combattere. Poi lungo il messaggio leggerò anche gli altri più brevemente dopo. Voi continuate e ci risentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, tra poco ci aggiorneremo sulle ultime notizie che riguardano le indagini a proposito degli attentatori in fuga, gli attentatori superstiti della strage di Parigi, e poi ci collegheremo anche con Parigi per sapere che clima c'è, come vivono le persone dopo soli due giorni da quello che è successo. Intanto stavo guardando le ultime agenzie e sapete che c'è stato anche il G20 che si è concluso e ovviamente in primissimo piano è finito anche lì i fatti di Parigi. Vi ricordo le notizie più importanti, ma anche che c'è il numero per i vostri messaggi, il 349-238-6666 per i vostri sms, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Volevo leggere ancora qualcosa. Luca scrive: quanto successo inevitabilmente ci cambierà e cambierà le nostre vite, abbiamo tutti il senso di avere la guerra in casa, aspettiamo di vedere cosa succederà a Roma, gli eventi ci stanno travolgendo, avremo sempre meno spazio per il pensiero critico e sempre più urgenza, così scrive piuttosto sconfortato Luca sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Mentre voi scrivete, vi ricordo quali sono le notizie più importanti se non avete acceso puntualmente alle 21. Hollande, il presidente francese, dice: la Francia in guerra contro l'ISIS, l'Unione Europea intervenga con noi, bisogna cambiare la Costituzione. Poi Salah Abdeslam è in fuga, l'uomo che sarebbe la mente di questi attentati a Parigi, quindi caccia l'uomo in tutta Europa, sfugge alla cattura in Belgio. Svolta nel G20 sulla transizione in Siria, la Turchia che dice Assad non ha futuro e Obama dice intanto però no alle truppe di terra. L'ISIS lancia nel frattempo nuove minacce, ora tocca agli Stati Uniti a chi tira bombe, c'è l'allarme della CIA, dice in cantiere, ci sono altri attacchi, Renzi pronti al pugno duro, dichiara Alfano, si dice preoccupato per il giubileo. Poi per quanto riguarda la campagna, vi dicevo caos in consiglio regionale, oggi è un Movimento 5 Stelle che ha portato la questione De Luca in primo piano rispetto a quella che doveva essere gli attentati in Francia. E poi addio a Nando Gazzoli, voce inconfondibile del teatro, aveva 87 anni. E ora siamo con Livia Zancaner. Ciao Livia. Ciao Roberta. Parliamo del G20 che, sul quale ovviamente è piombato il tema degli attacchi a Parigi, e sembra, in Turchia c'è stato il G20, Livia Zancaner, e è sembrato che le posizioni di Putin e di Obama una volta tanto si fossero riavvicinate, ci fosse una convergenza, si è fatta girata questa foto dei loro profili piuttosto vicini, però dal Cremlino poi hanno frenato un po' sulla possibilità di convergenza. Sì, allora il tentativo c'è stato ieri con il bilaterale Putin-Obama. Il tentativo poi ha funzionato solo a metà, nel senso che poi è arrivata la precisazione del Cremlino, che è quella che citavi tu. Il colloquio è stato costruttivo, ma 20 minuti non sono una svolta, ha detto proprio il portavoce di Putin. Lo stesso Putin ha però dichiarato poi che Mosca si è avvicinata all'Occidente, almeno sicuramente di più di quanto lo fosse un anno fa. Nella lotta all'ISIS, quindi, no? Nella lotta all'ISIS, ha detto di avere posizioni più vicine anche con la Turchia per quanto riguarda la crisi in Siria. Poi una cosa piuttosto grave che ha detto Putin, ma probabilmente diciamo ha squarciato un po' questo velo di ipocrisia, ha detto che i jihadisti dell'ISIS, probabilmente in qualche modo nel passato anche la Russia c'entra, i jihadisti dell'ISIS sono finanziati da persone fisiche provenienti da 40 paesi, tra cui anche membri del G20, ha detto oggi Putin. Sì, allora la cosa più concreta è che nelle conclusioni del G20 appunto c'è anche la lotta a chi finanzia lo Stato Islamico e si parla anche di sanzioni, e appunto non sono state solo parole, nel senso che Putin ha mostrato ai colleghi del G20 immagini provenienti dallo spazio che raffigurano colonne di autocisterne usate dagli jihadisti per il trasporto del petrolio, e lo stesso leader russo ha accusato che, come dici tu, i finanziatori dell'ISIS provengono da 40 paesi, tra questi ci sono appunto dei membri del G20, sempre secondo i dati a disposizione della Russia. E appunto Mosca ha sottolineato che l'ISIS controlla la maggior parte dei giacimenti petroliferi siriani e la vendita di greggio rappresenta proprio la principale fonte di finanziamento dei terroristi. Senti, e poi per quanto riguarda invece Obama ha detto più volte che l'ISIS appunto non è un gruppo terrorista, un gruppo di killer, che ha detto lo distruggeremo, quindi insomma sicuramente questi attentati di Parigi hanno creato una svolta, vediamo se effettivamente si può intraprendere questa strada comune, no? Visto che probabilmente c'è stata una sottovalutazione, anche il fatto di non essere concordi a livello di comunità internazionale, questo ha fatto sì che l'ISIS proseguisse, no? Nell'alimentarsi, nel crescere. Sì, assolutamente sì, la novità, se si può chiamare così, è che si vede anche appunto nelle conclusioni del G20, che tutti i paesi devono essere uniti per combattere lo Stato Islamico, uno Stato Islamico che è il volto del male, che deve essere distrutto. Queste sono state le parole di Obama. Quindi i grandi della terra hanno condannato gli attentati di Parigi e Ankara, hanno ribadito con forza la lotta al terrorismo, che significa anche, come dicevamo prima, lotta a chi lo finanzia, alla propaganda terroristica e anche più sicurezza nei cieli. E poi, per finire, il presidente americano ha annunciato il rafforzamento dell'alleanza con la Francia, cioè abbiamo raggiunto un nuovo accordo per condividere le informazioni e prevenire nuovi attacchi, ha detto Obama, ribadendo più volte che l'ISIS non è l'Islam e i rifugiati devono essere accolti. Grazie Olivia Zancaner. A te, grazie. Ciao Olivia. E adesso colleghiamoci direttamente con Parigi, dove c'è il nostro Gigi Donelli, che lì da qualche giorno ha respirato un po' il clima, ha girato per la città, ha incontrato la gente, ha parlato con le persone. Ciao Gigi. Roberta, buonasera, un saluto agli ascoltatori. Tra l'altro oggi, appunto, come dicevamo, François Hollande, il presidente francese, davanti alle Camere riunite, dopo gli attentati, ha fatto il suo discorso, ha detto questo è un attacco alla patria dei diritti dell'uomo, non è una guerra di civiltà perché i terroristi non ne hanno nemmeno una. Hollande dice mercoledì chiederò lo stato di emergenza per 3 mesi e ha chiesto anche di poter cambiare la Costituzione, che insomma è un fatto piuttosto rilevante. E mi chiedo anche che tipo di impatto dopo questi attentati possa avere anche sulla gente a Parigi, in Francia. Ha detto che continueranno i bombardamenti, anzi si rafforzeranno sulla Siria, e poi ha parlato di 8.500 nuovi posti di sicurezza e giustizia, dice, e sarà la fine anche della riduzione di effettivi nell'esercito. Quindi insomma ha in mente un piano strategico complessivo. Ma mi chiedo, Gigi, andando poi alla gente comune, che è quella che vive tutti i giorni, no? e che ha sentito anche quanto sia così vulnerabile, perché magari a volte si pensa ci sono degli obiettivi precisi, invece sappiamo quello che è successo a Parigi, così, no? Con persone, sì, che stavano totalmente semplicemente lì o allo stadio o a sentire un po' di musica. Sì, direi che questa è stata la quintessenza dell'attacco terroristico, nel senso che oggi proprio, per esempio, a mezzogiorno, quando c'è stato il minuto di silenzio, che poi in realtà è durato molto più del minuto istituzionale, ero di fronte al Carillon. Il Carillon è uno di questi locali dove appunto venerdì sera, a partire dalle 21:20 circa, si è scatenato letteralmente questa furia omicida. Il Carillon è uno dei, chissà, 10.000 locali classici parigini in cui c'è un bar e all'esterno quello che i francesi chiamano la terrasse, che non è una terrazza ma è semplicemente la parte coperta sul marciapiede. Bene, questo è il modo in cui si vive in queste città, e non solo, anche nelle nostre, tra l'altro. Certo. Cioè, in cui il venerdì sera le persone, soprattutto quelle che hanno una fascia d'età tra i 20 e i 40 anni, escono, non solo ovviamente. Ecco, questo è esattamente il tipo di bersaglio casuale fino a un certo punto che è stato appunto preso in questi eventi, e per questo lo shock è davvero impressionante, insomma il colpo è stato durissimo. Senti, ma le persone che hai incontrato, con le quali hai parlato, che cosa dicono, quali sentimenti esprimono, si sentono in guerra? Ti racconto un paio di episodi, sì, se sei d'accordo, perché sai, si può usare sempre gli strumenti retorici, tutti si sentono in guerra e nessuno si sente in guerra, perché poi questo, in guerra contro chi? Contro l'arabo? No, ieri sera ho visto in Piazza della Repubblica, c'erano dei ragazzi musulmani con dei cartelli che dicevano sono musulmano, sono francese, vi voglio bene. Questo è interessante, perché ci si sta chiedendo in queste ore appunto, ma forse i musulmani moderati potrebbero dare segnali più forti della disapprovazione. I musulmani moderati stanno dando segnali di tutti i tipi. Oggi l'imam di Toulouse, di Tolosa, ha detto esplicitamente è ora di buttare fuori dal paese gli imam che predicano l'odio. Insomma, cosa devono fare gli imam moderati? Non dimentichiamolo mai, il 98% delle persone, ma credo anche di più, è assolutamente normale che sia musulmano o meno. Il problema generale è che bastano pochi a fare una strage. Ti stavo dicendo quello però che è accaduto che mentre eravamo lì nella piazza, ecco, improvvisamente è stato davvero un momento di enorme adrenalina, si sono sentite delle urla. Bene, immaginate la scena, Plaza della Repubblica, circa 2.000 persone che pregano, cantano, insomma, porgono gli omaggi alle vittime, improvvisamente un fuggi-fuggi spaventoso. È stato davvero un colpo al cuore, perché improvvisamente, mio malgrado, ho vissuto la banalità del male, scusate l'espressione così importante, ma nel senso che sei lì in mezzo, non si capisce nulla e si sentono dei colpi. Bene, era totalmente un falso allarme. Ecco, quello era un falso allarme. Venerdì sera non sono stati falsi allarmi, i colpi sono stati spietati e ovviamente la fortuna ha poi scelto nel mucchio chi si è salvato, chi non si è salvato, perché non c'era nessuna differenza, no? Nell'essere il bersaglio casuale di assassini. Una seconda cosa, proprio mezz'ora fa ero su Rue Turbigo, che è una delle tante vie del centro di Parigi. Improvvisamente, sai gli scappamenti delle moto, sì, soprattutto devo dire alcune particolarmente rumorose, sì. Bene, ma soprattutto fanno dei colpi. Sì. Ora, davanti a me si sono voltati in 10. Ecco, da motociclista e da osservatore ho visto nei loro occhi una vampata di preoccupazione. Quindi dal senso della tensione con cui... Normalmente noi in una città come Parigi non ci preoccupiamo se uno scappamento fa un botto. Mm. Senti, a proposito invece di forze dell'ordine in giro, la città è militarizzata? No, la città non è affatto militarizzata, la città è... nel senso, qui c'è una forte presenza della polizia, la gente è anche divisa, c'è chi ne vorrebbe molto di più, c'è chi dice perché non sono dappertutto. Stiamo parlando di nuovo di una grande metropoli di milioni di abitanti e di una situazione molto particolare, ecco, sia sul piano emotivo che organizzativo. Certo, sentiamo un passaggio di Hollande del discorso che ha fatto alle Camere riunite oggi. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Quindi c'è la Francia in guerra, quello che è successo sono degli atti di guerra. È stato proprio l'esordio, subito dopo ha detto però attenzione, non è uno scontro tra culture, è chiaro che è un messaggio molto preciso. Cioè Hollande è stato... diciamo insolitamente preciso, di solito i capi di Stato, no? In queste situazioni un po' retorici, un po' vaghi. Ecco, lui ha detto il nostro nemico si chiama Daesh, appunto, che è il modo in cui i francesi chiamano quello che noi chiamiamo l'ISIS, insomma, lo Stato islamico, punto e basta. Cioè non ci sono questioni di paesi, di musulmani o di cristiani, c'è il Daesh, e effettivamente su questo è stato molto duro, molto fermo, dicendo che l'obiettivo adesso per la Francia non è contenere questo stato di terrore, ma è distruggerlo. Tra l'altro, poi sì, ha detto anche. Vedere, perché chiaramente non sono i primi che ci provano. Ha detto anche, vabbè, che incontrerà Obama, Putin, che bisogna unire le forze, però a proposito invece degli immigrati, ha detto è necessario che l'Europa accolga con dignità chi rientra nel diritto d'asilo, ma rimandi nel suo paese chi non ce l'ha. Poi sappiamo a Parigi la situazione delle banlieue, appunto si è ripetuto in questi giorni, no? Che da lì molti figli di seconda generazione si sentono discriminati, sentono di non avere prospettive rispetto ai loro coetanei francesi, no? La disoccupazione, il fatto di sentirsi marginali. Sì, anche loro sono francesi come i loro coetanei e bisogna fare molto attenzione alle facili affermazioni. Di sicuro esistono dei fatti. I fatti raccontano che la maggior parte di questi terroristi gravitano tra il mondo delle banlieue e del Belgio, di quel quartiere di Molenbeek che a ovest della capitale del Belgio e dell'Europa, che di fatto è a una dozzina di minuti di autobus dalle istituzioni europee. Insomma, che ci siano dei punti da rivedere poco ma certo. E un'ultima cosa, appunto, rispetto ai profughi, ai migranti. Beh, sembra in qualche modo che stasera Hollande abbia sottoscritto la linea, poi, che è quella di Donald Tusk, che è la linea polacca, che è la linea dei paesi dell'est, insomma, aperti ma molto fermi. Ha detto anche se non sappiamo difendere le frontiere esterne dell'Europa, l'Europa non potrà reggere questa crisi. Gigi, per chiudere, comunque le persone come le vedi tra loro? A parte hai detto che sobbalzano, appunto basta un rumore in più di una motoretta e chiaramente dopo quello che hanno vissuto. Sì, lo so che sembra una sciocchezza, ma è esattamente questo, perché per il resto le persone sono quelle loro stesse, i bar sono pieni, Parigi è bella e si cammina in un clima peraltro che continua come a Milano nei giorni scorsi a essere estremamente mite. Ecco, questo... con sullo sfondo, alla fine del mese, ricordiamo, qui ci sarà uno dei grandi eventi, mi riferisco a COP21. Sì. Allora, tanto per dire una cosa, il 30 di novembre qui ci saranno insieme Obama, Putin, altri capi di Stato e di Governo, un numero spropositato di stranieri in visita, insomma, Parigi è sicuramente ferita, Parigi ha visto cose peggiori nella sua storia, anche questo non va dimenticato, come accade alle grandi metropoli, e si prepara, insomma, sperando che appunto non debba accadere qualcosa di brutto. Chiaro, come ha detto Orlando, i francesi sono stati feriti ma sono coraggiosi e vanno avanti. Viva la France allora, Gigi, abbracciaci i parigini e le parigine. Senz'altro, viva la France. Grazie, ciao. Ciao Gigi Donnelly, ciao. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, molti vostri messaggi che arrivano sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 sul vostro sentire, se è cambiato le vostre abitudini di vita, se sentite che quello che è successo a Parigi in qualche modo vi condiziona anche nella vostra vita quotidiana, nella vostra vitalità. Vi aggiorno con una notizia che è arrivata poco fa a proposito della manovra, la legge di stabilità, passa alla Commissione Europea, sapete che è all'esame della Commissione Europea, ma con riserve, come lo scorso anno, e a rischio di non conformità col patto di stabilità, però i prossimi aggiornamenti ci saranno poi nei prossimi giorni. Adesso, mentre sto per collegarmi con la nostra Raffaella Calandra per sapere quali sono gli ultimi sviluppi dell'inchiesta, voglio leggere ancora qualche messaggio vostro sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vincenzo, il modo di sentire e vivere lo faremo cambiare a questo manipolo di assassini, regime duro nelle carceri senza che nessun ben pensante ci metta il becco. Francesca, quello che è successo è una tragedia immane, l'Occidente non è più al sicuro, non è più il posto più sicuro, francamente ora mi sento più umana, più fragile, ma maggiormente in grado di sentire il senso di precarietà e di orrore di coloro che la guerra e il terrorismo ce l'hanno da decenni sotto casa. Raffaella Calandra, ciao. Ciao Roberta. Le indagini e la caccia all'uomo continuano, l'operazione della polizia francese, no, per identificare i complici del commando che venerdì 13 ha perpetrato questa strage a Parigi. E si parlava dell'ottavo membro del commando, Salah Abdeslam, che sembrava stesse viaggiando a un certo punto verso Torino, passando da 20 miglia dalla Francia, però poi è stata smentita questa cosa. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? In realtà sono soprattutto due i pezzi mancanti di Parigi, dell'attentato di Parigi, che in questo momento si stanno cercando, e sono due ventenni. Tu fai riferimento ad un allarme che oggi, ad una nota diffusa oggi anche alle polizie italiane, di una Seat nera che si cercava, sì, passata pareva anche attraverso l'Italia da 20 miglia, avrebbe avuto a bordo in realtà non Salah Abdeslam ma un altro, un trentenne considerato Baptiste Boutique, considerato comunque vicino agli attacchi di Parigi, ma comunque questo era un allarme che è stato poi smentito perché quella stessa macchina è stata ritrovata a Parigi. Questi due che mancano, ventenni che mancano, sono l'ottavo attentatore, appunto Salah Abdeslam, e Abdelhamid Abaoud, che invece viene considerato dalla polizia belga il possibile regista dell'attacco. Si tratta di un ventottenne di origini marocchine che è latitante dallo scorso gennaio, da quando la sua cellula è stata completamente smantellata, e anche lui viveva nella quartiere Molenbeek, il quartiere di Bruxelles a maggioranza araba, che è diventato un po' una sorta di fabbrica di attentatori, che anche oggi è stato preso d'assalto, diciamo, dalle forze di polizia, che avevano fermato 7 persone, ma soltanto 2 alla fine sono state trattenute, uno dei quali pare fosse anche l'artificiere, diciamo colui che ha preparato gli ordigni della strage di Parigi. Tra i 7 fermati c'era anche il fratello di Salah Abdeslam, ma alla fine è stato rilasciato. Quindi la caccia a questi pezzi mancanti dei comandi che hanno fatto strage a Parigi prosegue, mentre si mettono insieme ancora dei pezzi, diciamo, che fanno capire anche la rete che avevano questi attentatori, una rete che porta anche ad Istanbul, dove alcuni membri vicini al jihad del califfato erano stati arrestati nei giorni scorsi e che pare avessero dei contatti con questi attentatori di Parigi, ma una rete che conduce anche a attraverso il mercato nero dei documenti che vengono spesso rivenduti anche per i profughi, perché oggi è stato confermato che un migrante di un campo profughi serbo aveva lo stesso documento siriano, il passaporto che è stato trovato lì, sì, al Bataclan, dopo gli attentati, no, dello stadio della Stade de France. Benissimo. Era vero solo possibile solo perché erano stati entrambi comprati in un mercato nero in Turchia. Quindi intrecci molto molto complessi, insomma. Grazie a Raffaella Calandra, è difficile il lavoro dell'intelligence, però poi sapete ci sono anche le polemiche sull'intelligence francese, sugli allarmi ricevuti e non tenuti di conto, insomma. Comunque adesso ne parliamo invece con Alberto Negri. Alberto, buonasera a tutti voi. Ciao Alberto, inviato del Sole 24 Ore, inviato speciale. Stavo leggendo questo messaggio di Federica che dice: mentre tutti pensano al futuro, a me interessa capire il passato. Credo che è lì che dobbiamo guardare per imparare a capire come agire. Noi italiani spesso sappiamo troppo poco di quei paesi, abbiamo la memoria corta. Ci spieghi in sintesi, Alberto, ce lo ricordi perché fa bene ricordarlo, da dove è nato l'ISIS? Mica è un fungo così che... Ma no, certamente Roberta, che non è nato da nulla. Nasce da una costola di Al-Qaeda, una filiale di Al-Qaeda fondata nel 2004 da un terrorista giordano, Abu Musab Zarqawi. Questui fondò l'Al-Qaeda nella terra dei due fiumi, la terra dei due fiumi naturalmente la Mesopotamia, l'Eufrate e il Tigri. Era un'organizzazione tra le più sanguinarie e che tra l'altro mirava diritta allo scontro etnico e settario con i curdi da una parte e con gli sciiti dall'altra. Questa organizzazione fu sgominata nel 2006 quando venne ucciso Zarqawi in un'operazione dagli americani. Molti di loro finirono dentro in carcere, tra questi proprio al-Baghdadi, e qui ricostituirono la loro rete in carcere. Non solo, ma strinsero patti di alleanza con gli ex militari del regime di Saddam Hussein e i seguaci del disciolto partito Baath. Quando ritornarono sulla scena erano più forti di prima, si avvalsero delle conoscenze militari degli ex soldati di Saddam, degli ex ufficiali dell'esercito saddamiano e portarono la guerra civile irachena dall'altra parte, cioè in Siria. Questa è stata l'intuizione strategica di Baghdadi, saldare le due guerre civili. Tra l'altro, nell'ultimo minuto che ci rimane, Alberto, la cosa importante è che molti sottolineano, anche ascoltatori, si ricordano che l'Occidente, con la sua ambiguità, ha avuto un certo ruolo anche nel fare crescere questo movimento integralista islamico, no? Anche l'Arabia Saudita con le sue ambiguità, la Turchia. Ma non c'è dubbio. Innanzitutto la guerra in Iraq fu un magnete per tutti i gruppi jihadisti e radicali islamici, e poi soprattutto in Siria, perché la Siria non è stata soltanto una guerra civile. Purtroppo la legittima protesta popolare pacifica dell'inizio contro il regime di Assad è stata presto monopolizzata dai gruppi armati e più estremisti, che hanno trovato appoggio negli stati della regione. Arabia Saudita, monarchie del Golfo, facevano la guerra all'Iran, una guerra per procura all'Iran, cioè al maggior alleato di Assad, e la Turchia naturalmente puntava a una caduta del regime di Assad perché interessata a espandere l'influenza in quella zona e a contenere i curdi, per questo che migliaia di jihadisti sono passati proprio dal confine turco. Grazie Alberto Negri, grazie, intanto grazie a voi. Rinfrescarci la memoria, poi torneremo anche nei prossimi giorni con Alberto. Adesso gli aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ve le ricordo, volevo leggere ancora qualche messaggio, sono molti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. Floriano dice: finito il clamore, tra pochi mesi per la maggior parte sarà come prima. Noi che spesso giriamo in tante parti avremo più timore, ma non possiamo smettere le nostre abitudini. Le notizie più importanti, gli attentati di Parigi, fondamentalmente, con Olanda che nel suo discorso alle Camere Unite ha dichiarato la Francia in guerra e Putin al G20 accusa 40 paesi finanziano l'ISIS. Prosegue la caccia ai terroristi, come avete sentito, si allarga un po' in tutta Europa. Il giubileo tutto confermato, il Papa lo aprirà in Africa, il ministro Alfano comunica alla Camera che cresce la preoccupazione per la minaccia terroristica. A proposito di paure, di timore, avete sentito appunto Olanda, dice siamo in guerra, anche noi ci chiediamo siamo in guerra, qualche ascoltatrice, vedo Camilla, dice ci prepariamo mentalmente ad affrontare in casa nostra quello che è accaduto in Francia, perché una cosa è certa, colpiranno anche noi, insomma diciamo è più dettato questo dalla paura, poi si è ripetuto più volte che sono imprevedibili questi attacchi, l'intelligence può fare il suo mestiere, ma è chiaro che non può controllare ogni centimetro quadrato di ogni città dell'Europa e del mondo, e quindi dopo Parigi effettivamente la sensazione non solo i parigini e i francesi, ma di timore, di insicurezza, è inevitabile provarla. Ne parliamo con Giuseppe Craparo, buonasera, psicologo e psicanalista, docente all'Università di Enna, ha scritto Il disturbo post-traumatico da stress. Professor, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, come si può dopo fatti di questo tipo riuscire a ritrovare il proprio equilibrio, a non abbandonare diciamo la nostra vitalità, la voglia di uscire? Sento già molte persone anche intorno a me che dicono ma io forse in zone affollate, al cinema non ci vado, non vado a sentire quel concerto, forse è meglio di no, forse è meglio stare in casa. Beh, è chiaro che entrano in gioco diverse variabili. Una variabile è quella riguardante le caratteristiche di personalità e la forza psicologica che deve portare comunque la persona a non rinunciare alle proprie abitudini di vita, al proprio piacere nel fare le cose che solitamente fa, alla propria attività lavorativa, alle proprie relazioni interpersonali. Chiaramente poi entrano in gioco anche le variabili sociali, di supporto sociale e anche di comunicazione sociale, no? Per cui da un lato è importante che ci sia, come dire, un'attenzione realistica al fenomeno, però dall'altro lato bisogna anche avere un senso di responsabilità su ciò che viene comunicato alla gente. Questo significa che chiaramente un evento come quello che è successo a Parigi è sicuramente un evento molto stressante, ma gli effetti traumatici, con questo intendo gli effetti sull'equilibrio psicofisiologico del soggetto, sono determinati anche dalla capacità di gestione emotiva del soggetto stesso, quindi dalla capacità anche di tollerare un senso di precarietà che si può accompagnare a sentimenti di paura, di angoscia, a un sentimento di insicurezza, ma che chiaramente soprattutto anche un sentimento di rabbia e di impotenza, no? Rispetto alla possibilità di poter anche intervenire su questioni che, come quello di Parigi, sono difficili da gestire. Detto questo, laddove ci sono queste forze psicologiche di gestione emotiva, è probabile che non che ci sia una riduzione della gravità del fenomeno, ma quantomeno una migliore e più adeguata gestione del fenomeno stesso. Ma secondo lei, professor Craparo, semplicemente sì, bisogna cercare di essere un po' più fatalisti, nel senso che può accadere come può non accadere mai, è inutile rinunciare a vivere, a fare delle cose? Beh, è chiaro che se noi fossimo in Francia le cose sarebbero diverse. Le ricerche ci dicono che quanto maggiore è la distanza dalla fonte di minaccia, cioè, minore è l'impatto emotivo. Chiaro. È anche vero che siamo sempre lì, la vulnerabilità psicologica emotiva del soggetto può portare a vivere quei sentimenti di insicurezza che possono determinare poi quei quadri clinici più o meno gravi, che possono andare da disturbi d'ansia, disturbi depressivi, anche all'uso di comportamenti, alla messa in atto più che altro di comportamenti additivi come tossicomanie, disturbi del comportamento alimentare, alcolismo e quant'altro. Io direi che anche sulla scorta di un recente testo che ho scritto, direi che forse dovremmo cominciare a vivere nel senso della, ma in termini positivi, dell'incertezza e della precarietà. Non dobbiamo stare a quelli che sono i ritmi della vita sociale, però avere un senso, forse sì, come dice lei, fatalistico della vita, che non significa rinunciare alla vita e all'amore per la vita. Grazie professor Craparo. Grazie, che grazie poi ognuno ci metta un po' del proprio, ecco, per non farsi sopraffare da queste sensazioni. Stefano dice: no, la mia vita non cambierà. Largen dice: momentaneamente sì, non puoi non pensarci a Roma quando prendi la metro, credo sia normale avere paura. Land dice: normale la mia vita, come prima. Alberto: il mio no, quello dei nostri politici imbelli e del Papa. E poi Giuliano dice: no, sarebbe come ammettere la sconfitta, cambiare il proprio modo di sentire, le proprie abitudini. Ci risentiamo alle 22.